Andiamo fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temi che non vedi perché non sono più quelli che cerchi veramente. E bentornati su Radio Forte 100 Celle Avengers per questa puntata anomala, a dir poco. Si è svegliato anche il bimbo e quindi ancora più anomala. Puntata che va in onda dai 5 continenti. Abbiamo possibilità infinite con i nostri mezzi a 100 Celle Avengers e quindi non posso presentare immediatamente i miei compagneros se non chiedendo l'ausilio di Alexa. Eccomi. Che ci metterà in collegamento con il resto della redazione mediante una tecnologia all'avanguardia detta telefono. Pronto? No, Gabri, pronto? Tu sei qua, pronto. Sei l'unica che è qua. Io non Gabri, lo non devi fare pronto. In compagnia di Gabri Grubi, la giornalista faziosa che è qui con me a Roma Nord, ci colleghiamo anzitutto con colei che di solito è alla mia destra e ai comandi, ma oggi è dove sei, ce lo dici adesso, Betta. Ma come Roma Nord? Est! Buonasera, piccoli nerd! Da 100 celle! No, io parlavo di noi che siamo a Roma Nord con 100 celle Avengers finto. È la latenza, è la latenza. 100 celle Nord. Ah, ok. Okay. Ho invocato. Il sistema di riferimento, dai, Nord, tu. Ma uguale. Questo è il bello della giusto, diretta differita. Diretta differita che continua i suoi saluti con Virginia. Buonasera dal lettone con la borsa dell'acqua calda. Ciao a tutti e a tutte. Incredibile, yeah. Quindi normalmente si presentava anche la giornalista faziosa Gabri Grubi. Buonasera, bentornati a 8:30. Buonasera. Siamo qui con Italo Bocchino, Marco Travaglio, Massimo Cacciari. Ci vediamo dopo la pubblicità. Buonasera. Che nomi subito, ovviamente l'hai scelti proprio con lanternino. E andiamo a salutare anche The Beautiful Mind, collegato anch'egli, Franci. E viva, dagli tutti da Tortre Teste, la ridente Tortre Teste. E poi prima o poi dovrò capire dove stanno queste tre teste, però vabbè, quella è un'altra cosa. Me lo chiedo pure io, lo so, poi te lo racconto. La storia delle torri. E avremo anche possibilità di collegarci più tardi con la maestra professoressa Viola direttamente dal planetario di Sydney, che ci allieterà con le sue poesie e le sue diciamo saggezze. Mi raccomando, Viola, quando ci colleghiamo di cose sagge, perché sennò poi sembra che ho detto così delle corbellerie. E contenti di esserci quest'oggi, una puntata che abbiamo voluto mettere sotto l'albero. È tanto che non ci sentiamo, diciamocelo, non facciamo i vaghi, siamo felici di esserci di nuovo e non potevamo non dedicare questa puntata ai più piccini, perché salutiamo anche il piccolo Filippo. Filippo! Lui è qui che sta facendo delle puzze fenomenali in questo momento. Mi sta mitragliando sulle gambe. La radio ancora non può restituire queste sensazioni all'ascoltatore, ma qui l'aria è abbastanza pesantina. È un fungo atomico qui. Non magari è male. La tagliamo, è bellissimo. D'altra parte di pomeriggio ci troviamo fra il terzo e il quarto lattuccio della giornata e si sente, ma salutiamo anche per una volta, senza dimenticarci di lui, il povero Iron Man, che è qui che ci dà una mano con il bimbo. Ciao Iron Man. Ciao Iron Man. E non manchiamo anche di salutare la nostra intelligenza artificiale Alexa, che ci fa appunto stare in collegamento in questo stesso medesimo momento. Buonasera a voi. Ciao Alexa. Ciao. Applausi sentiti. Ciao, molto bene. Io non stiamo nella pelle all'idea di ricominciare con le nostre rubriche piene di contenuti questa puntatona di due ore, ma non prima di aver ascoltato una musica che non so assolutamente che cosa sia. Ma scusa, Teddy Birdy? Ah, scusate, è vero, hai ragione. Quest'oggi la schiera dei Devices è impreziosita dalla presenza di un nuovo elemento che ci sta dando una grossa mano in questa fase della nostra vita. Egli è Teddy the Bear, detto anche Teddy l'orsacchiotto inquietante. Saluta Teddy. Ciao, sono il tuo amico Teddy, orso delle emozioni. Dai, giochiamo insieme. Grande. Molto bene, a questo punto siamo veramente tutti. Autore, titolo. Perfetta, la mia canzone preferita. Metto musica generica, riproduco. Ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No, bovino della Gallura? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No? Aleatico dell'Elba? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In gelateria non ci entro mai. Che cioccolato! Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No? Cacao della Bolivia? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca! Il nord del nerd, Chuck, prima, azione! Radio Forte, 100 celle Avengers, di nuovo insieme in questa bellissima diretta natalizia in differetta. In direttina. Evviva! E lieti di essere qui con voi da remoto, collegati nei 5 continenti del globo terraqueo. È il momento della saggezza, è il momento della sapienza, è il momento di chi normalmente sta alla mia destra ai comandi, ma oggi non è qui con me, ma è lontana da me. E passo la parola quindi a Betta con il suo Nord del Nerd. Ma sono alla tua destra nell'anima? Sì, sì, assolutamente. A destra del cuore, che c'è a destra del cuore? Questo può sembrare veramente, ci sta la tre agli sti giorni, non diciamo queste cose, per favore. Oddio, è vero. Il cuore c'è. Sono malissimo. Più a destra di tutti destro, c'è Betta. Non è giusta questa cosa che voi state tutti a sinistra, io sono l'unica che sta a destra. Comunque, era tanto tempo che lo pensavo. Ma siamo alla 56esima puntata, te ne sei accorta che stai. Però ogni in volta realtà te stai sulla sinistra, perché il Parlamento si vede a specchio, questa cosa. Quindi se devo toccare a destra, tocca cambiare posto al mixer, che ne dite? Facciamo passare sta mozione? Ok, allora simulo un cambio posizione nel mixer. Strack, ok, l'ho spostato. Quindi alla mia sinistra, estrema sinistra, troviamo Betta che ci annuncia la sua rubrica dotta. Buonasera, piccoli nerd! È il nostro momento? Buonasera! È il momento dei bambini! Sigla! Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso il mario, pote, certo, c'è l'Avengers, c'è una rubrica dotta che si chiama Nord del Nerd. Come l'ha chiamato? Nord del Nerd! Grazie, Nord del Nerd, se certo c'è l'Avengers. Quella che cammini. Insomma, cerca di prendere il ritmo. Destra, sinistra. Buonasera, piccoli nerd. E stavolta davvero piccoli, direi, visto l'argomento kids della puntata. Come preannuncia il buon Merlino in sottofondo, parleremo di canzoni pensate per catturare l'attenzione dei bambini e magari per insegnargli qualche cosa. Non necessariamente come usare la pinna caudale, ma sai, nella vita tutto fa comodo. Anzitutto, c'è da dire che la musica è un ottimo strumento per stimolare lo sviluppo cognitivo, emotivo e linguistico dei bambini. È quindi una parte molto importante dell'inizio della vita di tutti noi, in momenti in cui ancora le aree sensoriali del cervello, udito, vista, tatto e persino le connessioni sinaptiche si stanno ancora formando. Il sistema uditivo, in particolare, sin dall'inizio è già ben formato. I neonati, infatti, riconoscono la voce della madre e i suoni familiari sentiti quando erano ancora nella pancia. Quindi, neomamme, fategli sentire musica buona sin dall'inizio, anzi prima dell'inizio, che se no poi ve li ritrovate fan di Gigi D'Alessio non sapete neanche perché. Le canzoni possono avere anche uno scopo educativo, aiutano i bambini a ricordare concetti base come colori, numeri, emozioni o anche le stesse note. Ora io non so voi, ma personalmente ancora oggi quando devo cantare una scala ringrazio gli Aristogatti. Ciao maestro Adriano. Questo fissaggio nella memoria dei concetti avviene tramite meccanismi come la ripetizione e la semplicità delle melodie. Non è un caso se i Teletubbies ripetono ogni concetto tre volte. La ripetizione aiuta moltissimo in quella fase particolare della vita che è l'infanzia a ricordare e fissare i concetti, non solo a livello di parole ma delle stesse melodie. Le più famose canzoni per bambini hanno degli schemi melodici molto ripetitivi che aiutano anche a dare un senso di sicurezza, poiché prevedibili. Ad esempio, la famosa Baby Shark, che tutti i genitori imparano a odiare, sì, v'ho visto, lo so io, lo sapete voi, ripete lo stesso schema più e più volte. E questo è parte del successo planetario che questo motivetto ha avuto. Ma non è solo questo il segreto. Andiamo un po' più sul tecnico. Il segreto delle canzoni per bambini è la pentatonica. E ora che ho fatto la pausa hype, posso anche spiegarvi perché. Chiedo scusa in anticipo, come al solito, ai musicisti veri, perché quando parlo di teoria musicale potrei dire castronerie, quindi uomo avvisato, mezzo intonato. Sì, oddio, mi pare che fosse così. La pentatonica è una scala che, come da nome, conta 5 note, penta, invece delle canoniche 7, se no sarebbe stata eptatonica, a voler fare i precisi. Ora, se prendiamo una classica scala maggiore da 7 note, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sì, lo so, musicisti veri in ascolto, vi si stanno a rizzare i capelli, non so proprio 7, famola semplice per un momento, che è divulgazione, eh? Allora, dicevo, una scala maggiore segue una sequenza di intervalli tra le note che tutti conosciamo, tono, tono, semitono, tono, tono, tono, semitono. C'è chi pure che si è fatto il tatuaggio. Con le distanze di semitono, nel caso ad esempio della scala maggiore di Do, tra il Mi e il Fa e tra il Si e Do. Nella pentatonica non ci sono queste distanze di semitono, cioè le note stanno tutte a distanza di un tono, il che fa sì che sia molto difficile produrre dissonanze, quindi banalmente è più facile usare questo tipo di scala per scrivere canzoni facili da cantare e da ascoltare. Molti strumenti per bambini, come il flauto dolce, quello che studiamo ai elementari, bianco, coi buchetti, sono pensati per suonare melodie pentatoniche. Pare inoltre addirittura che sia la scala più antica del mondo, altro che scala santa. Nel 2008, nella Germania sud-occidentale, in una regione conosciuta come Svevia, gli archeologi hanno trovato dei flauti realizzati con delle ossa di avvoltoio durante gli scavi. Questi flauti avevano 5 fori ed erano incredibilmente accordati sulla scala pentatonica. Dopo le analisi effettuate dai ricercatori, si scoprì che questi flauti risalivano a 30-40.000 anni fa, un periodo antecedente persino alla scrittura. Che robetta. Moltissime canzoni per bambini sono scritte utilizzando la scala pentatonica. Twinkle Twinkle Little Star, Fran Martino Campanaro, per tornare in Italia, la stessa Baby Shark, persino il Circolo della Vita del Re Leone usa una scala pentatonica africana. Questo per dire che c'è un lavoro molto tecnico anche dietro a quelli che sono prodotti per bambini e che a volte ingenuamente diamo per scontati. E ci lavorano dei grandi compositori. Joe Raposo, ad esempio, compositore delle canzoni di Sesame Street, i The Sherman Brothers, i compositori Disney che hanno composto per Mary Poppins, Il Libro della Giungla, i cui pezzi hanno avuto un'enorme influenza sulla musica per i più piccoli, con la loro capacità di creare queste melodie accattivanti senza tempo. Philip Barlow e Geoff Bush, gli autori della colonna sonora di Bluey, il famoso cagnolino amato dei più piccoli. Per quanto sembrino semplici, le loro melodie pescano a piene mani da generi come il classico, il jazz, il folk, e nelle serie a cartoni nascondono spesso veri e propri omaggi ai compositori classici, come Mozart o Beethoven, o addirittura arrangiamenti di canzoni pop molto sottili. La colonna sonora di Bluey ha vinto diversi premi, incluso l'Aria Award per la miglior colonna sonora per bambini, il che testimonia questa attenzione alla qualità musicale che va ben oltre gli standard delle produzioni per bambini in genere. Paw Patrol, altro famoso cartone per bambini, quello con i cagnolini che fa i poliziotti, vanta una sigla composta da Smith e Kipane con un ritmo trascinante e dei riff di chitarra elettrica niente male, che ricordano lo stile dei Green Day e dei Blink 182, sin dalla sigla. Nella serie poi ogni personaggio ha un suo tema musicale, quello marziale con i tamburi e le trombe per Chase, il poliziotto, quello leggero con i flauti e i sintetizzatori per Sky, la cagnolina che guida l'elicottero, quello buffo e allegro per Marshall, il cagnolino più comico e più goffo. In questo caso le melodie pop rock danno un tono più epico e avventuroso per la qualità del prodotto, essendo un cartone di tono un po' più eroistico. Insomma, anche in questo tipo di prodotti c'è maestria e tanto lavoro. Piccoli nerd, con ciò è giunto il momento di salutarci. Vi lascio con un pezzo di Joe Raposo da Sesame Street, reso famoso da Kermit la Rana. Being Green, Joe Raposo. It's not that easy being green, having to spend each day the color of the leaves, when I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not that easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things, and people tend to pass you over, 'cause you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. But green's the color of spring, and green can be cool and friendly like, and green could be big like an ocean, or important like a mountain, or tall like a tree. When green is all there is to be, it could make you wonder why, but why wonder, why wonder? I'm green, and it'll do fine, and it's beautiful, and I think it's what I want to be. Filippo, io sono tuo padre. Basta giocare a guerre stellari, che si spaventa. Chiedo scusa. Oh, ma è così che mi aiuti? Io di te non mi posso fidare. Basta Iron Man, non lo volevo fare, ma abbiamo bisogno di aiuto. Non capisco. Io chiamo... mi dispiace. Non lui. Dobbiamo pensare anzitutto all'educazione, ai contenuti. Io penso che lui ce la possa fare. Per Pippo, per i bambini a casa, diamo il benvenuto a Teddy l'Orso delle Emozioni. Ciao, sono il tuo amico Teddy Orso delle Emozioni. Dai, giochiamo insieme. Brivido. Bene Teddy, quali contenuti ci hai portato per i bambini a casa? Tante parole impariamo ad usare. Grazie alle lettere possiamo parlare. Leggere, scrivere, vi piacerà. Oh, che bello. Oh, con l'alfabeto. E beh, A, B, C e le altre? Mi pare un po' la sola, Teddy. Dai, giochiamo. Vabbè, insieme. Visto che come al solito qua devo fare tutto io, perché da voi Devices non si cava un ragno dal buco, a questo punto io chiamo in campo qualcosa che sia veramente di spessore. Un grande ritorno su Radio Forte 100 Celle Avengers, Iron Man, te lo ricordi? Aquiloni di parole. No. La trasmissione su Radio Forte più amata dai bambini? Non capisco. Amata soprattutto perché ha una sigla. Aquiloni di parole, aquiloni di parole. Quando vuoi ascoltare Radio Forte, hi, I'm your friend Teddy. Aquiloni di parole, aquiloni di parole. La buonanotte per Filippetto, per il lattuccio, andiamo a letto. La favola delle vocali e delle consonanti. C'era una volta il paese delle consonanti. Era un bel paesino, pieno di letterine che avevano tanta voglia di parlare e cantare, ma non ci riuscivano. C, c, c, c, c, c, diceva la C. Rispondeva la M. Z, z, z, z, z, sentenziava la Z. S, ribadiva la S. F, f, f, f, f. Soffiava la F, ma il risultato fu solo un richiamo per mucche, mosche e zanzare, senza riuscire a comunicare fra di loro, tantomeno cantare. Un bel giorno giunsero in paese cinque simpatiche sorelle che cantavano in allegria. Erano le vocali A, E, I, O, U. Arrivate da Vocalandia, un paese molto carino dove si cantava dalla mattina alla sera, ma non si riusciva a fare un discorso serio e completo, per cui tutti erano allegri ma molto sciocchi e superficiali. Comunicavano tra di loro con degli insulsi messaggi, detti appunto vocali. Scusate il vocale, ma stamattina mi sono svegliato tanto, ho fatto colazione, avevo la faccia e così di fatto senza senso ho pensato subito, mo lo chiamo perché devo dire di... Vedete la qualche parte a metà strada, così se becchiamo che non ci vedremo mai. Oppure pensate, io mando un bel messaggio perché te devo dire delle cose importanti su... Una cosa che ti volevo dire un sacco di tempo e quindi questo. Così la A, che era la più aperta, disse alla D che passava di là. Proviamo ad unire le nostre voci. Di, di, rispose la lettera. Si avvicinò alla A e improvvisamente riuscì ad emettere il suono da. Da. Accorsero tutte. La T divenne ta, la M divenne ma e così via. Fu la volta della E che con l'incontro della N cominciò a diventare ne. La L le, la B be. Non riuscivano a credere alle loro orecchie. La F e la I si misero a fischiare fi e in coro dissero sì. Anche le più timide chiuse O e U si fecero avanti e con la L e la T fecero un bel ululato. Potevano finalmente comunicare e più si univano e più nascevano nuove parole, frasi, discorsi. Le parole diventarono così tante da doverle scrivere in grossi libri che andarono in giro per il mondo. Mai ci fu un incontro più felice come quello tra le vocali e le consonanti. Tuttavia, non a tutti andò così bene. Un bel giorno la timida lettera N si recò al parco a cercare degli amici. Su di una panchina vide tre lettere che chiacchieravano allegramente. Fece per presentarsi. Insomma, niente, dicevo quella cosa, c'è questa cosa che ti stava di prima, però è importante se... Un giorno sono la lettera N, disse. Ah. Ti stavo dicendo. E quindi te stava a dire che praticamente... Non è che aveva dei chiacchierà? Non sono d'accordo, eh. Aggiunse. Per me va bene. Le tre lettere si presentarono. Perlomeno ci presentiamo. Piacere, io sono la lettera P. Disse la P. Babbo, io sono la lettera B. Aggiunse la B. Je suis la lettre M. Disse la M. Stavamo appunto ascoltando M che ci stava dicendo una cosa importante. Cosa? E a te che ti importa? Importa? No, scusa B, ci parlo io, eh. No, questo... Per esempio, ti piacciono i Beatles? No, i Rolling Stones. Pua! Perdonami, ma proprio a pelle mi sa che non sappiamo. No, ma io pensavo nuovi input. Input? Si dice imbuto. Bide, prego, non te ci mette pure te, eh. Te qua non imputti proprio nessuno. Pussa via. Barbara, ma chi ti ha invitato? No, ma io credevo... Ma sì, ma che si trovi un altro gruppo in cui stare. Così si impara. Impara. Così la povera lettera N se ne andò delusa e sola e vagando giunse a un chiosco dove una grande letterona era intenta a cucinare. Un giorno, disse N senza troppo sentimento. A tavola! Gridò lei che non lo aveva ancora notato. E tu, magrolino sei? Sono N, signora. Io sono la signora T. Sei il benvenuto alla mia tavola. Ho cucinato tanto. Grazie, signora. Grazie, signora. Disse N rincuorato e aggiunse. Ti posso essere utile? Sì, tu mi aiuterai in cucina. Esclamò entusiasta la lettera T. Con i tempi e le quantità. Così, grazie a te, potrò sapere quanto risotto buttare. E quanto è il momento di scolarlo? Non ho capito. Di quanto in quanto serve una mano in cucina? No, signora, sono confuso. Come di quanto... E di quanto in quanto? Di quanto in quanto? Passava di lì una strana lettera. E du, e da. Davvero dilettevole incontrarvi. Di passaggio per il parco ho udito quello che stavate dicendo e mi sono detto, qui c'è da fare. Sono la lettera D di Guido, per esempio. Ma Guido non... Benvenuto, signor Guido. Buon momento. Quando vedo una N in difficoltà, io accorro in sua difesa. Ah, e quindi? Potremmo cucinare assieme. Io sono molto bravo sui tempi. So sempre quando scolare. Sei davvero così bravo? E vorresti entrare nella mia cucina? Faremo assaggiare a N le nostre pietanze. Ah, beh, facete voi. Sarà lui a giudicare. E vabbò. E fu così che la T e la D si misero in società per la gestione del chiosco del parco e la N fu il loro primo cliente. Prezzi bassi, qualità buona e soprattutto porzioni abbondanti. Abbondanti. Giunse poi la grande festa, a lettere ovviamente. A tutte le letterine non sembrava vero poter parlare, gridare e ridere insieme. Che confusione! In disparte però stavano i poveri CE e CI. Erano tristi perché con quella vocina dolce nessuno dava loro retta. Te stai a divertirci? Chiese C. Cioè, non lo so. Rispose C. Cioè, non ce caga nessuno. C'hai ragione C. Rispose C. Non sapevo romper ghiaccio, fasse sentire, fasse notare. Cioè, non mi vedono proprio, un fantasma. Io ce avrei due amici. Ma sta a parlare di G&G, dai, quelli sono a collo. Ah sì, quello c'è. Poco distante stava seduta la signora H, che li ascoltava in silenzio. Si avvicinò a C e C, che piangevano a dirotto. Non ce la faremo mai. E disse loro: e ti credo, siete due tamarroni. E te chi sei? Io sono la lettera H. Agì, agè. Ma come parlate? Dici? Qua bisogna farsi capire. Discorsi chiari, diretti. No, giancicati così. Ascoltate me. Intanto andiamo insieme, che vi faccio da spalla. Se no pensano che siete due, come si dice, due accolli. E namo? Io sono muta, eh? E voi, tirate fuori il coraggio. Che me posso sedere? No, guarda, è occupato. E poi sto aspettando una persona. Ottimo, ottimo, vai. Chi sei tu, bella letterina? Ma chi bella letterina? Ma vedi, dannartene, va. Ehi, vabbò, raga, vabbò. Ma dobbiamo lavorare un poco sui contenuti. Fu così che da quel giorno C e C, quando vogliono fare la voce grossa, si fanno sempre aiutare dalla signora H. Quella sera, alla festa di lettere, ci furono tanti incontri, qualcuno un po' conflittuale. È mia! No, è mia! È mia! Col cacchio! È mia! C, K, smettetela subito di litigare! Ma mi ha rubato le parole! Sei lento, vecchietto! Lo sai che K è più piccolo di te? Cacca! Lo vedi? Lo vedi? Non te la prendere! Sii più maturo, passerà sta moda! E va bene, tieni! Giocaci pure. Grazie. Spacca. Qualcuno più sfuggente. Buondì. Oh, ciao. Salutò la F. Comunque è fera, eh. Ma X, fei tu? Ti ho riconosciuto. Sono in incognita. Ma falla finita. Ma lo fa Y che fai qui? Perché? Dov'è? Via. Ma a noi interessa un'altra coppia di lettere che si conobbero quella sera. E come se si conobbero? Quando l'ape vola sul fiore, la corolla si... Ehi, forse così è un po' troppo. Alleggerisci. Bello, da qui continuiamo noi. Vai, ragazza. La lettera G e il timido I, quella notte si incontrarono. E 9 mesi dopo, accadde qualcosa di magico. Il paese dell'alfabeto era in festa. La signora G stava per mettere al mondo un letterino. Il vecchio I era un po' nervoso. Io non gliela faccio. Mi sta più all'ansia. Un fio. Ma poi lo vedi, sono immaturo e mi vesto ancora così, con la maglietta. Giuggiole, io vado dalle giuggiole. Ma dov'è che stai? Ops. Oh. Oh. Oh. Oh, oh, aia, mi sa che ci siamo. Come ci siamo? Non so pronto. Ops. Voglio più tempo. Si sente da come parli. Se ci fosse Pi Greco, mi darebbe un consiglio. Ma non era meglio Piangatto, un conio? Un gatto! Pio a borsa? Pio? Un fio? Sì, dai! E fu così che nacque il piccolo L. E allora tutto fu molto più chiaro. Quando Giedi videro il loro figlio, d'improvviso furono colti come da un abbaglio. Certo, si sentirono un poco allo sbaraglio, ma mai pensarono di aver fatto uno sbaglio. Perché quell'esserino che era nato da un germoglio riempiva i loro cuori di felicità e orgoglio. Una forte tortorata come fosse un conguaglio, ma di quelle che ti rialzi e ti senti quasi meglio. E da allora ripartirono, con un certo piglio, per esserci nel mare impetuoso il solo scoglio. Che sempre lo sostiene e gli dà un buon consiglio. Gli mostra le occasioni e qui ce n'è un ventaglio. Lo veglia mentre scarabocchia sul suo bianco foglio. E mentre invece di dormire lui rimane sveglio, ti guarda sorridendo e il cuore ti si incaglia e accade in un attimo, in un battito di ciglia, che riesci nonostante la grande meraviglia a dire: anche noi ora siamo una famiglia. Una famiglia. Una famiglia. Ya. Sigla. Yeah. Radio Forte 100 Celle Avengers, è il momento del quizzone. Siamo in collegamento anche con la maestra Viola dal planetario di Sydney. L'emozione è tanta, cedo subito la parola a Virgi. E allora sigla! E allora allegria amici ascoltatori, bentornati in questa puntata di 100 Celle Avengers, il quizzone. Stavolta fisseremo qui a imperitura memoria i momenti più significativi di questi 11 anni di scuola di musica tra saggi, radio e tutte le amicizie vissute insieme. Un po' di regole del gioco. Allora, ogni partecipante verranno fatte 3 domande su 3 argomenti diversi: MD, i maestri e la radio. Se non si saprà rispondere, passerò al concorrente successivo e il vincitore si accaparrerà l'ambitissimo premio di un dolcetto di Natale. Wow. Bene. E allora competizione violenta, su. Competizione violenta, pronti per iniziare? Io vado. Prontissimo. Vai. Domanda numero 1, argomento MD per Gabri. Pronta. Di quale artista sono stati fatti ben 3 brani in un solo saggio di MD? Ah, non ci sono le alternative. Non ci sono le alternative. Sting and the Police. Bravissima, e Gabri indovina. Davvero? E Gabri indovina. Perfetto. Ce l'ha sparato uno a caso. Proseguiamo con l'argomento MD per Detta. Aia. Il nome dell'unico trombettista di MD. Ce l'ho sulla punta della lingua, leggi. Può rispondere Francesco. Ma credo sia il maestro Antonio. Hai parlato di saggi. Sbaglia Francesco, risponde Suano. Trattavasi di Sergio. Sergiolone. Bisogna sottolineare che era un brano dei Privatistas non previsto dai maestri e lo stesso Sergio era stato messo in mezzo in maniera coercitiva, però si è esibito effettivamente al saggio del 1986, mi sembra. Penso 2018, se non sbaglio. Più o meno, l'ho preso, dai. Salutiamo Sergio che ci ascolta spesso. Vai. Ciao Sergio, domanda per Francesco. Chi erano, vai, nell'ordine, Viola, Gabri e io nelle Spice Girls nel saggio del 2018? Madonna. Difficile. Non mi ricordo, aspetta. Tu penso fossi Gary. Bene, bene. Sì, sì, Gary, sì. Poi Viola, forse... non mi ricordo come si chiama, ma era la ex moglie di Beckham. Vittoria. Ti fermo qui. Risponde Suano. Risponde Suano. Ah, perché era sbagliata. Oddio. Bocciato. Oddio, per esclusione Viola era... Vabbè, una azzeccata, dai. Mel B, molto bene. E Gabri? E Gabri Grubi mi interpretava la biondina Emma Bunton. Perfetto, perfetto. Grazie, abbiamo 2 punti per il maestro Suano, che è maestro non a caso. Questa quindi è la domanda per il maestro Suano, che rischia di fare 3 su 4. Attenzione. A questo punto. Aia. Emozione. Questo è difficile, maestro. Prego. Nel brano Can't Remember to Forget You, portato dai Privatistas, chi era Shakira e chi era Rihanna? Mi butto perché non la so. Julie e Sophie. E Sophie. Qui c'è stato allora un suggerimento che si sente chiaramente perché state nello stesso microfono. Ma chi era Rihanna chi era Shakira? Vabbè, io mi giocherei Shakira, Sophie e Rihanna, Julie. Perfetto, abbiamo un quasi un plane. E passiamo alla sezione maestri. Domanda per Gabri: quale strumento ha iniziato a suonare il maestro Antonio Coronato? Con quale strumento, scusami, ha iniziato a suonare il maestro Antonio Coronato? Bravissima Gabri. Incredibile. Va bene. Passo oltre. Domanda per Betta. In che anno abbiamo avuto ben 3 maestri di batteria? Li abbiamo avuti? Nel 2021. Risponde Francesco. Se non ricordo male, mi sa l'anno scorso. Quindi 2023-2024. 2023-2024. Bravissimo, Fra. Veramente. Questa era bella. Sai dire anche i nomi dei... Scusate. Maestro Riccardo, maestro Damiano, maestro Claudio. Che salutiamo chiaramente. Che ci seguono sempre. Allora, domanda per Francesco. Qual è il numero totale di strumenti suonati sul palco dal maestro Suano? E se riesci pure a dirmi quali, fai nella sua carriera al saggio, ai saggi. Allora, sul palco. Sicuramente il piano l'ha suonato, chitarra l'ha suonata, ha suonato la fisarmonica, la batteria. Sì, ma non mi ricordo se ha mai suonato il basso, Daniele. Non me lo ricordo. Vabbè, dai, ma tanto dico 5, dai. Bravissimo. Non ho mai suonato il basso, Daniele. Mi sembra di no, perché ci sto io da troppo tempo, vero? Non mi sarei mai permesso. Okay. Mi aspettavo ci fosse il plot twist e uscisse a fare qualche strumento strano, tipo, che ne so, il kazoo, la kalimba. La fisarmonica te bastava. Effettivamente. Fu un bel momento. Bene. C'è Francesco in rimonta. Domanda per il maestro Suano. Chi è stato il primo maestro di Betta nella scuola di musica forte? Il primo maestro di Betta. Oh Gesù. Non ricordo anche io. Guarda, manco lei. Ma di MSD? Maestro Stefano. Maestro Corrado. Maestro Corrado. Quando ho conosciuto Betta aveva iniziato a fare lezioni di chitarra col maestro Corrado. È vero, io l'ho conosciuto Betta. Lì Betta, sì, ma, sì, cioè, almeno tu devi confermare, non è che davvero non bello te lo ricordo. Che Betta non lo ricorda. La vita degli altri. Abbiamo una domanda bonus alla fine per chi avrà fatto meno punti, oppure se vogliamo fare un raddoppia, poi ci pensiamo. Bene, abbiamo finito le domande sui maestri, abbiamo le domande sulla radio. Quindi Centocelle Avengers. Ricominciamo con Gabri. Se le indovinate tutte, vediamo se indovina questa. Vediamo. Con che oggetto è stato registrato il tip tap di Dance on the Radio? Questo credo di non averlo mai saputo. È rimasta un piacevolissimo mistero per me. Una di quelle cose che... Tant'è che pensavo che avessi ballato il tip tap. Veramente. Magari. Vuoi passare la domanda? Passo. Passa la domanda a Betta. Cavolo, non me lo ricordo, perché non ricordo nulla nella vita. Provo con una scarpa. Passiamo a Francesco. Domanda, risposta sbagliata. Quale strumento? Un synth. Con quale oggetto? Ho detto, non con quale strumento. Una bacchetta e batteria. Maestro Suano? Si trattava di un compasso di quelli da scuola della marca Kern. No, non lo so, non me lo ricordo. Dita tamburellate su una superficie plasticata. Avete sbagliato tutti, 10 punti per me. A questo punto ce lo devi ricordare, perché io lo sapevo una volta. Ma la risposta è con delle forchette. Attenzione. Ma dai, no, non me lo ricordavo. With the fork. Sì. Con delle forchette, quindi bu per tutti quanti voi. Domanda successiva. Detta. Ecco. Che strumento suona il nostro Aquaman, ovvero Jason Momoa, nella vita reale? È un bassista. Brava, brava. Sì. Riguarda la puntata numero 2 e basta, perché poi è morto, però solo per colpa tua, ricordiamolo. Ho fatto una conversata. Ma almeno è bravo. Questo. No. Ok, a posto. Ecco, passiamo alla domanda successiva. Qual è, per Francesco, qual è la prima frase della sigla della nostra trasmissione 100 Celle Avengers? E Carla, figura del merda subito. Cioè la sigla ufficiale, diciamo. La sigla, quella che abbiamo analizzato. Il testo che nessuno ha mai capito cosa diceva. Mamma mia, ci ho pure lavorato su sta cosa. Ma infatti. No, noi l'abbiamo capito a un certo punto. Ma io l'ho già dimenticato di nuovo. Siete tutti molto cari comunque. Paura della gente, ti nutrono della paura della gente. Ma chi? Chi? Come chi? Cioè, in generale, così è. Essi si nutrono della paura della gente. Io purtroppo devo passare la domanda al maestro Suano, che dovrà rispondere. Vabbè, ma così è facile. Questo è un po', cioè, forse dovrei essere escluso da questa domanda, non lo so, il regolamento cosa prevede. Ma direi di no, perché alla fine gli altri hanno risposto, ma anche loro avevano delle domande che li riguardavano, tipo Betta che si ricordava del maestro di citarsi, però se capitava a lei. C'è un po' di confusione autobiografica. Tu ricordi tutti i testi che hai scritto? Sì. No, io più che altro ricordo che spesso e volentieri, anche con altri testi, ho avuto il problema che la gente non li capiva perché mi mangiavo le parole o non lo so perché. E da qui nasce la domanda, infatti. E quindi la risposta alla domanda è: germi che non vedi. Bravissimo, bravo, complimentoni, ma qui veramente ci ricordiamo tutto, ok. Perché non sono quelli che cerchi veramente. Esatto. Vedi Betta che un pochino mi dà soddisfazione, grazie Betta di esistere. Abbiamo un'ultima domanda, sempre per il maestro Suano, e avremo anche una domanda bonus, per cui vi potrete prenotare prima di rispondere, ma la domanda varrà 5 punti, anzi 3 punti. E la domanda per il maestro è: qual è il nome e il cognome del bassista dei Litfiba? Beh, posso dire anche passo, perché potrei. Può passare la domanda, certo che può passare la domanda, tanto stai a vince. Andiamo a Gabri. Qual era la domanda? Aspetta, mi sono distratto. Nome e cognome. Non va bene. Ah, nome e cognome? È? No. Nome e cognome del bassista di Litfiba. 3, 2, 1. Non lo so, devo passare di nuovo. Io odio va passare. Va bene. Andiamo a Betta. Il nome era Virgi. Magari. Quello è il cognome. Non lo so, passo. Passa, Francesco. Guarda, sono indeciso tra Steve Di Giorgio, Steve Harris, oppure non lo so, non me lo ricordo. Potevo barare andando a vedere, ma non lo so. Bravo, bravo. Questa è onestà. Niente, nessuno ha indovinato, il bassista era Gianni Maroccolo, quindi bu per tutti quanti. Maroccolo, è vero. Punto per nessuno. C'è la domanda bonus. Ma com'è la classifica al momento? In questo momento abbiamo 4 punti a Suano, ben 3 punti a Fra, 2 punti Gabri, okay, e un punto Betta, sì. Allora io farei questo, farei una domanda partendo da chi ha meno punti. Chi sarà mai? Andiamo a fare questa domanda a Betta, vediamo se la sapete. La domanda è questa: qual è stato il record di brani suonati da una sola persona in un saggio e chi era questa persona? Vabbè, cioè sicuro è stato Suano. Virginia. Come no? Qua veramente ci stiamo andando a rispondere alle domande degli altri. Questa la tagliamo, questa la tagliamo, prego. No, è vero, ti poteva essere giusto, poteva essere sbagliato, io non so, hanno detto sì o no. Certo, no, probabilmente sì, probabilmente è stata Virginia, ma non so dire i brani perché secondo me sono stati tipo mille. Ok, puoi buttare un numero. 43. Ok, passiamo oltre. Gabri, 30... nome e numero. Virginia 33. Andiamo a Francesco. Medicina 33. Francesco, sei sicuro tu? Tra l'altro mi sa che era stato pure l'anno in cui è nato Westing Love, se non sbaglio, quindi quello di 3 anni fa. Vabbè, ok. E il numero, anzi il numero, non ho un po' di idea, facciamo 25. 25, sbagliato. Maestro Suano, io mi gioco un Virginia 18. Virginia 18, questo te lo ricordi perché ti ho battuto, perché era un Suano 17 quell'anno, lo sappiamo bene noi due. Ma io, e qui mi do 1000 punti da sola e vinco la puntata, qui io, perché sono io quella che ha fatto la battuta del record, ne ho suonati ben 23 nell'anno scorso. Vedi che c'era il 3. L'anno scorso, ragazzi. E quindi vinco io, ragazzi. È andata così, mi dispiace. Quindi mi faccio un dolcetto da sola. Stateci. Stateci, no, la puntata è stata vinta, il quizzone è stato vinto dal maestro Suano, d'altronde, cioè, come non dargli questo primato, ovviamente. Così abbiamo finito il quizzone. Ti ringraziamo assolutamente anche la maestra Viola che ha partecipato col cuore. Ma ha preferito i pianeti a noi? Sì, sì, capito, veramente, guarda, quasi quasi non le farei il lancio della rubrica. Per punizione. E bene, andiamo. Quindi a conclusione di questo quizzone avevi anche pensato a della musica che ci poteva far rifiatare dalla tensione del quiz? Ma certo, assolutamente. Il brano che ho scelto è Gattino. E adesso lo manderemo. Perfetto. Bene, quindi io direi che stoppo. Questa la tagli. Questa la taglio. Stoppo ed è buona. sento che costringi come Big Jim. Radio forte, pick un player solo quando gioco a pasti notte. Cento accelle range style. E welcome to Hotel Hilbert, check prima, azione! Radio Forte, 100 celle Avengers, sempre più veri, sempre più vividi in questa direttona incredibile di Natale. È il momento. E se posso che... dire. Prego. Mi scusi, carichissimi no, no. Dalla rubrica precedente, veramente abbiamo. Caricati non mai sentito... a molla, a pallettoni. Sì, sì. Dalla rubrica La precedente. È incredibile proprio. Visto quante cose avete imparato? Abbiamo stato, ascoltato guarda. La rubrica precedente che ci ha insegnato tante cose su argomento generico. Gattini. Gattini. Inserire. Esatto, è stato tutto molto istruttivo, ma questo è il momento che Teddy the Bear stava aspettando da praticamente 56 minuti di puntata, 45 minuti, no, di, diciamo 2 minuti di fermarlo. Puntata. Comunque lo stava aspettando perché, come sappiamo, anche Teddy si occupa di istruzione, non c'è solo Franci, e quindi Teddy voleva dire una cosa. È un bellissimo argomento, Teddy, mi hai molto colpito, veramente, molto. Teddy molto. È inquietante comunque. Sì. Io mio figlio lo vediamo, non glielo lascio. Anche il professor Casali questa volta ha avuto un occhio di riguardo per i bambini ai quali è dedicata questa 56esima puntata di 100 celle Avengers. E prego maestro. E quindi vi dico che proprio perché è una lezione per i bambini sarà un po' più corta, perché siamo quasi alle vacanze di Natale, quindi ho fatto più che altro una pillolina più che una rubrica, una suppostina, quindi posso dire una suppostina. No, perché sto diventando pratico di queste cose, gocce supposte. Se la capisci. Sì, va bene. E quindi welcome to Grand Hotel Hilbert, sigla. Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io. L'ho trovato io. E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Ma mi sembra un po' fuori del programma, e poi magari non a tutti interessa. Sì, sì, ci interessa. Cari bambini e ragazzi, oggi vi porto a scoprire una pillolina di matematica che vi sorprenderà e che riguarda i numeri. Già, proprio loro. Anzi, per meglio dire, i numeri. Sapete che esistono due tipologie di numeri, quelli pari e quelli dispari. Vi mostrerò, però, una proprietà che lega i numeri dispari con tutti gli altri numeri. Per spiegarvela è necessario introdurre il concetto di radice quadrata. Cos'è una radice quadrata? Quando moltiplicate un numero per se stesso, ottenete un altro numero. Ad esempio, se moltiplicate 2 per se stesso, ottenete 4. Si dice pertanto che 2 è la radice di 4, la radice quadrata di 4, cioè è quel numero che moltiplicato per se stesso dà 4. Ebbene, sfruttando proprio il concetto di radice quadrata, si ottiene la proprietà di cui vi parlavo. Esiste infatti una formula in matematica che lega numeri dispari, radici quadrate e tutti gli altri numeri. Partiamo ad esempio dal primo numero dispari, 1. 1 moltiplicato per se stesso fa 1. Significa quindi che la radice quadrata di 1 è lui stesso. Se ad 1 invece sommiamo il secondo numero dispari, cioè 3, otteniamo 4. La radice quadrata di 4 è 2. Proseguendo con questa sequenza si scopre che la radice quadrata della somma dei primi n numeri dispari è proprio uguale, pensate un po', a n. Infatti, continuando il ragionamento che abbiamo visto prima, se sommiamo i primi 3 numeri dispari otteniamo 9, la cui radice è proprio 3. Se sommiamo i primi 4 otteniamo 16, la cui radice è 4, e così via. Pensate, si dimostra che questa proprietà è sempre vera. Quindi posso sommare un numero qualunque di numeri dispari consecutivi a partire dall'1, farne la radice quadrata e ottenere proprio quel numero. Magia? No, semplicemente matematica. Per oggi è tutto. L'Hotel Hilbert vi ringrazia per aver soggiornato al suo interno e si augura di rivedervi presto. Ciao! Once that you've decided on a killing, first you make a stone of your heart. And if you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. There really isn't any need for bloodshed. You just do it with a little more finesse. You can slip a tablet into someone's coffee, and in a voice an awful lot of mess. Because it's murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. It's murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. You have a taste for this experience, and you're flushed with your very first success. Then you must try a twosome or a threesome. You find your conscience bothers you much less. Because murder is like anything you take to. It's a habit forming need for more and more. Pump up every member of your family, and anybody else you find above. Because it's murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. It's murder by numbers, 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. Killers were industrious, at least the ones that we all know by name. But you can reach the top of your profession if you become the leader of the line. For murder is the sport of the elected, and you don't need to lift a finger up. Stai ascoltando Radio Forte e questo a Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica a performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta, mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. Sempre in diretta su Radio Forte, Centocelle Avengers, è giunto il momento della poesia ed è quindi con grande giubilo che ci colleghiamo con la maestra professoressa Viola, la quale Iron Man oggi non mi ha seguito la linea editoriale. E perché? Perché dobbiamo sottolineare che la maestra professoressa Viola ha a che fare con i bambini tutto l'anno, quindi puoi immaginare la sua gioia quando le abbiamo detto: questa puntata è dedicata ai bambini, una giornata di lavoro praticamente. Quindi le è stato concesso di fare un pochino quello che più le garbava, sicuri del fatto che poi, quando un domani faremo la puntata su sesso, droga e rock and roll, la maestra professoressa Viola se ne uscirà con la puntata sui bambini. La maestra professoressa Viola ci porterà un contenuto strettamente dedicato ai bambini, ma d'altra parte non potremmo fare senza. E quindi è senza indugio che mi permetto di dire al suo posto: sigla! Lasciatemi leggere, sentire questa poesia. Vorrei e non so leggere, ho voglia di sentire questa poesia. Ciao a tutti, che bello ritrovarvi qui. Siamo in radio di nuovo, chi l'avrebbe mai detto? È stata proprio una sorpresa e non potevo non esserci con la mia consueta rubrica Music and Poetry. E per questa occasione se ne è parlato tanto anche con il maestro, con Daniele, per capire appunto cosa voler portare. In realtà ho scoperto questa, una poetessa fantastica che scrive poesie stupende, però ecco, la terrò con me e semmai poi in un'altra puntata racconterò di lei. Ma questa è una puntata invece dedicata ai bambini e diciamo che quindi ho pensato subito a un testo, in realtà un brano musicale di un cantautore napoletano che si chiama Newt, che è molto apprezzato sia da me ma anche da, ad esempio, Alessandra, la batterista di Musica d'Insieme, che qualche giorno fa mi ha donato per diciamo questo evento in cui ci siamo ritrovati tutti e organizzato da Betta, e che prevedeva appunto il Secret Santa. Per questa occasione mi è stato donato appunto da Alessandra questo, un quaderno preziosissimo fatto da lei, costruito da lei, dove, a parte la dedica speciale che mi è stata fatta a inizio pagina, scorrendo le varie pagine bianche di questo quaderno, che spero riempirò di tanti miei brani, ripercorre appunto questo brano di Newt che si intitola Semplice. E siccome appunto la puntata è dedicata ai bambini, il mio augurio diciamo è che possiamo noi adulti insegnare appunto ai bambini che la semplicità è qualcosa di assolutamente fantastico, che purtroppo le persone non si accontentano semmai facilmente, non fanno caso alle piccole cose che incontriamo, no? Ogni giorno vivendo la nostra vita. Certe volte non ci accorgiamo neanche che stiamo vivendo, e invece basterebbe poco per vivere comunque di momenti di felicità e farci caso, ecco. E quindi questo è il mio augurio per i grandi, che insegnino appunto ai bambini quanto è bella la semplicità. Cerco sempre accordi complicati con il mondo e poi mi scordo quanto è bello il giro di do. Ritmiche complesse per spiegare tutti i miei complessi, che quando ho finito poi non mi ricordo quel che ho. Ora ce l'ho, ora lo so, ed è semplice, come pioggia cade su di me. Cerco sempre il modo più corretto per esprimere un concetto, quando basterebbe dire amo, amo questo mondo, la mia vita e quello che ora siamo. Lo vedi il mio sorriso? Ora ce l'ho, ora lo so, ed è semplice, come pioggia cade su di me. Ora ce l'ho, perché ora lo so, ed è semplice, come pioggia cade su di me, come pioggia cade, come pioggia su di me. Ma come fa? Ed ecco amici il mio contributo, sono super contenta di partecipare a questa puntata e spero anche che ci siano appunto altre tantissime puntate. Bisogna solo organizzarci, ma io rimango positiva, ecco. Un bacio grande a tutti e buon ascolto e buona continuazione. Un bel giardino fiorito non è, è un po' selvaggio come piace a me. Ti guardi intorno e mi chiedi cos'è che trovo di così bello per te. L'amaca umana con la lumaca, la tartaruga là nel bambù, incontrò la formica che disse mica, voglio restare sola qua giù. Gli amici son andati, tutti saliti sulle radici fino lassù. Così la formica con la sua amica si mise in viaggio su per il bambù. Mentre salivano sempre più su, senza voltare la testa all'ingiù, delle vocine al di là del bambù chiesero di far parte della crew. Ciao, sono il ragno che ci guadagno se ti accompagno in cima lassù. Rispose il geco, sono tuo amico, se vengo teco che mi dai tu? Proprio un bel niente, venite gente, solo chi sente che ce la fa. Perché la vita è una salita, più saporita se insieme si va. Qualcuno correva, qualcuno no, e la lumaca ad un tratto obiettò: non son veloce, io non ce la fo. Ma la formica la rimproverò. Cara lumaca, che stai a fare? Se vuoi venire con me lassù, affretta il passo perché non posso portare un masso fino lassù. No, non ne ho voglia, questa magnolia con la sua foglia mi basterà. E fece la cuccia nella corteccia tra le sue braccia si sistemò. Questa avventura finita non è. Di amici qui ce ne sono altri tre. Ma come non vuoi sapere chi è che si presenta di notte alle tre? La gatta nera, forte guerriera, che sempre spera nel suo menù. E la zanzara piena di sera, baldante e fiera, vola lassù. Poi c'è il topino, un po' di ricchino, e a tuo papino paura fa. Vabbè, siamo tutti belli e brutti, topi e gatti, super il bambù. Vabbè, siamo tutti belli e brutti, topi e gatti, super il bambù. Alexa, Iron Man, riunione di famiglia. Eccoci. Quest'anno a Musica d'Insieme abbiamo di nuovo quattro gruppi. E allora? Come allora? Dovremmo trovare dei bei nomi per le quattro band, no? Non capisco. Cosa devo ricercare? Servirebbe qualcosa di evocativo, di efficace. I quattro... Riproduco. Eravamo quattro amici al bar. No, meno buttata là. Riproduco. Quattro tarbaru. Questo mi piace. Meglio. Ci stiamo avvicinando, però ancora non so. Anche se la base ispira. I Fantastici Quattro. Eccala, lo sapevo. Costi supereroi, un pochetto abbiamo pure rotto. Come di? Squadra Elementos. No, hermano. Los que tocan la musica juntos. No, hermano. Grazie. Ay no. Por favor. Come si? L'abbiamo già fatta. Qualcosa di simile, ma più profondo. Quattro figure alate. In che senso? Marco, Matteo, Luca e Giovanni. No! Vabbè, raga, ma me volete aiutare o no? Dai, concentrati. Una cosa semplice, essenziale, ma significativa. Simbolica, come vi posso dire? Quattro segni. Rielaboro. Quattro matrimoni. In alto i cuori e... Quattro Vangeli. Grandi quadri che vi ho fatto. Perché sono entrato coi fiori. I grandi quadri che vi ho fatto. Perché sono entrato coi fiori. In alto i cuori. Aspetta che devo. Quadri. Fiori. Cuori. Quadri. Fiori. Cuori. Quadri. Fiori. Radio Forte 100 Celle Avengers è il momento in cui i fonici si sfogano con la loro rubrica preferita, ma ormai questa rubrica è diventata altro, è diventato uno spin-off, e questo è Traumi Fonici Tech Whisper. Sei fregato. Oh, che cazzo state dicendo? Andiamo! Sono il vostro fonico! Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. Ciao, sono Cesar Swan e questo è Tech Whisperer. Sono un fonico e ho fondato la rubrica Traumi Fonici per esorcizzare i miei mostri, portarli alla luce e sconfiggerli. Parlarne alla radio mi sembrava qualcosa di utile, finché non è successa la cosa più straordinaria che potesse accadermi. diventare padre. Il lungo percorso della paternità mi ha aiutato ad ascoltare. Ah, ma hai preso il latte della centrale? Ma parzialmente scremato. Affrontare. Ma che gli stai facendo sentire? Una sinusoide a 432 pura. Superare prove che fanno sembrare il nostro mestiere una bazzecola. Sorpresa! Oh, amore, ho trovato tutti gli amici tuoi. Non mi piace. Via, andate via. Scusate, no, vabbè. Oggi a Tech Whisperer aiuto altri fonici a ritrovare se stessi e l'autostima necessaria a fare un lavoro che la gente non capisce. Mi scusi, ma veramente lei sa che cosa sono tutte quelle lucette? No, signor, vada a culo, questo è Tech Whisperer. E benvenuti a questa prima puntata di Tech Whisperer, spin-off di Traumi Fonici, telefono amico dal quale, garantendovi il più totale anonimato, noi cerchiamo di darvi il supporto sul territorio che pochi altri vi danno. Abbiamo già qualcuno in linea? Buonasera. Buonasera. E vuoi usufruire di un nickname per non essere riconosciuto? Preferirei stare nel completo anonimato perché qua è una situazione di... Però per un fatto di confidenza mia, che ho bisogno di sentire vicino l'ascoltatore, ho bisogno di... dammi un nome a cazzo di cane, insomma. Sound Guy, per esempio. Può andare, nel senso, abbastanza generico da risultare... Comunque, ragazzo del suono. Ok, Sound Guy, vuoi parlarci del tuo problema? Sì, guarda, perché è proprio una di quelle cose che quando ti succedono, cioè, non ci puoi fare niente, è una roba talmente assurda che... È una carica molto negativa oggi, eh? Sì, no, ma più che altro di rabbia, cioè di proprio sfiducia totale verso chi queste cose le progetta e le mette sul campo. Perché se tu progetti una cosa, come minimo ti devi immaginare che la stai usando. E quindi dovresti prevenire qualsiasi... Ok, ma andiamo con ordine, perché devi tenere conto che ci sono tanti ascoltatori che non sanno di cosa stiamo parlando. Io capisco, noi siamo qui per questo, non ti devi preoccupare, sei in una bolla di amicizia. Che cosa è successo nello specifico? Niente, quindi... Diciamo evento X, corporate, quelli che nessuno di noi piace fare, quelli che ti chiamano e ti dicono ma sì dai, sarà una cagata, poco tempo, poca roba, 3 microfoni, ok. Le conferenze, ricordiamo per gli ascoltatori, i corporate sono le conferenze più o meno, diciamo grande azienda produttrice di macchine, presentazione di questa grande macchina nuova, iper tecnologica, guarda, una figata. Arriva il momento dell'inizio, clou, pezzo grosso di azienda X sale sul palco con archetto perfetto, tutto provato, no? Comincia a parlare, tempo circa 30 secondi, muto. Vabbè, uno dice, corro dietro, prendo lo spare, c'era un gelato spare, prendiamo lo spare. Spare è il microfono di riserva. Mentre sto prendendo in mano questo spare, guardo i banchi, mi accorgo che il banco non entra niente. Il banco muto. Come ti sei sentito in quel momento? Come ci si deve sentire? Di merda, insomma, col cliente alle spalle, fiato sul collo, eravamo in 3. Tra l'altro con me c'erano 2 grandissimi fonici italiani rinomati e quindi tutti e 3, insomma, ci guardiamo e... In quel momento l'unica cosa che si poteva dire era... Raga, è morta la rete. E vai a spiegargli che è caduta la rete, che non funziona più un cazzo. Tutti impanicati cominciamo a... cercare di capire, no? Col culo stretto, sperando che questa cosa non succeda di nuovo, anche perché poi ci doveva essere un talk radiofonico con collegamento Zoom, una band che suonava, insomma. Tutto in Dante. Tutto in Dante, chiaramente, sì, certo. La stessa giornata, fonico, grande fonico numero uno, attaccando il suo computer con Dante Controller alla rete, constata che il suo computer non prende il sync. Togli quel cazzo di computer! Quindi? Mica gli succede di nuovo 2 secondi dopo, quindi constatiamo che non è quello. Arriva grande capo del service. Avete dato la colpa a tutto. Abbiamo dato la colpa a tutto. Tolgo i 6.000, cablo, la roba, pure quello del video addirittura mi ha aiutato a tirare sto multicore, perché Ovviamente la stage box era dall'altra parte della sala rispetto ai radiomicrofoni, perché il Dante permette questo, il Dante permette. Sì, è perché le convention sono proprio una figata e quindi ti dicono no, qua non puoi stare. C'è un po' di rivore, questo ragazzo effettivamente è traumatizzato fonicamente, prego. Sistemata, tra virgolette, questa cosa, ovvero tolti i radiomicrofoni dalla rete e messi in analogico, parte il live e non succede più un cazzo. A un certo punto io ero seduto a farmi i bei cazzi miei, a riflettere su questa cosa, e vedo su Dante Controller che una Rio non ha il secondario. Come parla? La Rio 1608 che dovevamo usare all'accensione ha presentato un messaggio di errore mai visto, ovvero tutte le luci lampeggianti, che se vai a consultare il manuale c'è scritto fatal error contatti Yamaha. E quindi è possibile che io mi devo prendere una cazziata con conseguente, questa cosa è andata in diretta su tutti i social, quindi muto audio, diretta mondiale. E niente, quindi insomma il mio esposto verso Audinate è che minchia, non puoi fare una cosa che mi sovrascrive hardware, quello che io ho fatto programmando l'unità il giorno prima, in questo modo così becero, con spostamenti millimetrici dovuti dall'impeto della bassa frequenza audio. Che come parla? Cioè, mi stai dicendo che i sub ti hanno spostato l'interruttorino di 2 mm e ti hanno sfanculato tutto? Sì, sto dicendo questo. Colpa di Yamaha, allora, se vogliamo proprio dare le colpe. No, no, è colpa di Audinate, è colpa di Audinate. Tutto chiaro, tutto chiaro. Ma sicuramente lei, Soundguy, ha mandato comunque il consueto feedback fino alla sede australiana della Audinate, riportando tutti gli estremi del problema. Ebbene, noi di Centocelle Avengers su Radio Forte disponiamo dei mezzi oggigiorno per monitorare, tracciare come se fosse un pacco il suo feedback. Possiamo sapere dove va a finire, chi lo ascolta. Tutto questo grazie a Iron Man e Alexa. Ci penso io. Che in questo momento stanno tracciando il feedback di Soundguy. Ecco, sarà sufficiente che uno di loro clicchi sul nostro feedback e... Feedback agganciato. E siamo dentro, siamo dentro. Ancora feedback negativi dall'Europa? Ah, dobbiamo parlarne al presidente. Vuole essere chiamato Aidan. Lo sai, ci tiene a essere uno come noi. Come noi, con tutti quei sordi, se vabbè. Buonasera ragazzi, Aidan vi sta aspettando. Grazie. Oh, i miei ragazzi, qui siamo tutti una famiglia. Signore? Volete un goccio, una Coca-Cola, una Diet Coke? Signor presidente, Aidan. Non chiamarmi presidente, siamo una famiglia, chiamami Aidan. Signore, noi volevamo riportarle... Cattive notizie, Aidan. Il sistema Dante continua a dare problemi di instabilità. Non possiamo continuare a incolpare i fonici che non capiscono di rete. Prima o poi se ne accorgono. Ma che se ne accorgono questi fonici? Ma io non lo so. Ma come? Presidente? Non capisci che ormai è troppo tardi? Abbiamo creato un protocollo di trasmissione adatto a tutti. Tutti monteranno schede Dante. Dovranno venire da noi, non c'è alternativa, solo da noi. Perché noi ci attaccheremo come lumache al cervello di tutti i produttori audio del mondo. Lumache al cervello? Ma come, presidente? Abbiamo già Yamaha. Ogni scureggia di audio nel globo terraqueo passerà attraverso Dante. Ehi, un secondo, ha una lumaca che gli succhia il cervello. Shh, o verremo tutti risucchiati. Noi siamo i cavi e i capi del futuro. I cavi? E che te pensi, che negli anni 60 a Mr. Cannon gli telefonavano ogni 2x3 per un cavetto difettoso? Perché dovrei dare retta a questi feedback? Per tutelare il consumatore. Ma come, ma... Mi dispiace, davvero un giovane promettente. Ma io? Tu, e tu hai visto troppo. Ma che cazzo state dicendo? Sono il vostro fonico. Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. Bentornati di nuovo in onda su Tech Whisperer. Dovendo molto al signor Lumaca al cervello, in quanto la regia stessa di Centocelle Avengers poggia le sue fondamenta su Dante, non ci sentiamo nella posizione di poter criticare, ma al contrario vi lanciamo una grande promozione. La prossima missione è partire subito per il pianeta Lumaca al cervello. Bene, torniamo in studio con un altro caso di cui vi abbiamo già parlato nelle scorse puntate. Il caso ormai noto del signor Giorgio. Buonasera e bentornato. Buonasera. Ricordiamo per chi si fosse collegato da poco che il signor Giorgio è affetto da una sindrome della quale si vuole finalmente liberare. Ce ne vuole parlare? Tutto comincia... Scusate, ricordiamo che conosciamo il signor Giorgio come una persona estremamente onesta, un tecnico generoso, una persona sincera. Prego, lei? Lei? Io non riesco a dire la verità. Lei non riesce a dire la verità. Da quanto tempo? Circa 3 o 4 anni. Abbiamo un RVM. Giorgi, ma dici che regge sta scala? Sì, perfettamente. Oh! Ah! Oh, Giorgi, l'hai pulito il backstage? Sì, è lindo e pinto. Che cosa è successo qui, rane, topi? Che... Oh, Giorgi, tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Ragazzi, si è bruciato il mix. Si riconosce, signor Giorgio? Non lo so. Noi sappiamo, signor Giorgio, che il suo, chiamiamolo disturbo, ha un'origine ben precisa, che qualcosa è successo per farla diventare così. E oggigiorno, con la nostra moderna tecnologia a radioforte 100 celle Avengers, siamo in grado di scandagliare il suo inconscio alla ricerca di questa origine. Deve solo volerlo. Potrebbe essere traumatico, questo glielo devo dire, ce ne rendiamo conto, ma potrebbe riuscire a liberarsi da questo male che l'assedia da più di 3 anni. È d'accordo con noi, signor Giorgio? No, mannaggia, di nuovo, no. Sì. Noi non intendiamo forzarla, per di più in diretta. Tenga conto, signor Giorgio, che alla mia parola di professionista che interrompo la diretta in qualsiasi momento lei lo voglia, signor Giorgio, ok? No, sì. Bene, gentile pubblico, siamo al primo esperimento al mondo di psicoanalisi percettivo-sensoriale in diretta radiofonica. È pronto? Non lo so. Ok. Iron Man, Alexa, contatto. Scansione contenuti subconscio. Cos'è sto fungo cinese? Elaborazione in cui il processore ci siamo. Giorgi, come va? Sento un po' di scrocchi, di audio, tutto sotto controllo? No, il mixer dà problemi perché c'è il canale 4 rotto. Quando gliel'ho detto ha sbroccato e mo sto andando a dirle che abbiamo il mixer di scorta che funziona, però c'ha l'ascolto cuffie bruciato. Quindi magari se non usa le... Aspetta, gliel'hai detto? Sì, gliel'ho detto. Giorgi, mannaggia, te non devi sempre vuotare il sacco così. In che senso? Che gli artisti nel momento dell'esibizione sono nervosi e vanno rassicurati. Sai che un mixer funzionano 2 canali su 4? Non glielo dici, attacchi tutto sui 2 boni e se te dice sfiga, se ne accorge, cerchi di affrontare il problema come se non ne fossi a conoscenza, come se fosse la prima volta, capisci? Quindi devo dire una bugia? Sì. Una cazzata? Gli devi dire una cazzata. Gli devi dire una stronzata. Posso dire una... Sì, vai, vai. Vado. Vai e di una solenne... Scusa, siete il tecnico. Qua no, non funziona, non so che mixer mai dato, il canale left, no, non si sente. Non lo so, funzionava perfettamente. È questo il momento. Alexa, sai cosa fare? Ricordo cancellato. Interrompi il contatto. Come si sente, signor Giorgio? Perfettamente. Dunque è lì che tutto è cominciato. Abbiamo raggiunto la chiave di volta, capisci? Chiave di volta. Sì, il fulcro, il nocciolo della questione. Qualcuno mi aveva detto... A volte fa male ripercorrere certi episodi, ma vedrà che ora tutto sarà diverso. Ma io... Chi? Quella voce che l'aveva plagiata, signor Giorgio. A volte sono le persone intorno a noi che ci influenzano, ci malconsigliano. Non sapremo mai di chi si trattasse, ma voglio dare un messaggio chiaro. Te che sei ancora là fuori, a piede libero, libero di rovinare questi tecnici onesti. Voglio dire, no pasaran. Oggi il signor Giorgio si è liberato. Perfettamente. Si sente bene, signor Giorgio? Perfettamente. Le elezioni statunitensi, signor Giorgio, sono state vinte da... Kamala Harris. Signor Giorgio, la S Roma in classifica. Prima pari merito col Napoli. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata con Tech Whisperer. Ringraziamo il signor Giorgio e speriamo che questa esperienza vi sia piaciuta. Una merda. And esta prenestina siempre está trabajando. Ya no sabe si habla contigo o si está conectado, porque aprendió cómo mentirte mirando a los ojos, porque le gustó la mentira. Porque el mentiroso, porque el mentiroso se olvidó de contarnos muchas cosas sobre su vida. Porque el mentiroso, porque el mentiroso le hizo mal olvidar la verdad. Ay, maldito. Non lo so, il mixer funzionava perfettamente. Il mezclador. Se rompió el mezclador, mezclador de sonido. ¿Dónde está mi soporte técnico? En aval escondido. ¿Por qué me mentiste, Jorge? Ay. Cuentaste que todo iba a ser perfecto. ¡Vamos! Me emborrachaste con tus mentiras. Jorge el mentiroso, Jorge el mentiroso, se olvidó de contarnos muchas cosas sobre su vida sabrosa. Jorge el mentiroso, Jorge el mentiroso, la hizo mal olvidar la verdad. Jorge el mentiroso, Jorge el mentiroso, se olvidó de contarnos muchas cosas sobre su vida sabrosa. Jorge el mentiroso, Jorge muy sabroso, le hizo mal olvidar la verdad. Jorge. Oh, haría yo, oba, oba, oba. Radio Forte, libera autogestione. Ecco sì, siamo di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. Il momento è caldo, un'emergenza di quelle solite, più o meno ricorrenti nella giornata, che però risolviamo con grande stile. Perché? Perché vi riproponiamo con la rubrica Artifici, grazie ad Angelo, grazie ad Angelo. Un contenuto che è passato su Radio Forte ad aprile, quando ancora Gabri mi stavi col pancione, ancora il povero Filippo era ignaro di quanti contenuti sarebbero stati a lui dedicati. Questi sono probabilmente non i primi, ma diciamo quasi i primi. Ricordiamo in uscita in settimana il libro Caravaggio Pasolini De André, nonché Filippeide, tomo 1 dedicato alla nascita del piccolo Filippo, di cui vi proponiamo appunto questo estratto. Sigla! Grazie Angelo, grazie Angelo. Non conoscendo affatto la storia dell'arte, grazie Angelo, grazie Angelo. Sempre gradevole, sempre importante, grazie Angelo, grazie Angelo. Ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Arriva Filippo. Sta arrivando Filippino, il più splendido bambino, col cavallo e con un ciuccio. Sta arrivando Filippuccio. Col cavallo lui ci corre, con il ciuccio ci discorre, perché è un ciuccio ed è paziente, è educato ed è sapiente. Avrà pure un orsacchiotto, birichino e tanto ghiotto, che si porta sempre dietro il lucertolino Pietro. Nella coda del cavallo sta acquattato un grande gallo, che col chicchi del mattino rompe i timpani al gattino. Il gattino, certamente, dormiglione impertinente, entra ed esce a piacimento, mangia, beve ed è contento. E il gattino porterà la farfalla tra lalla, colorata e variopinta, con la sciarpa sempre intinta. Dal cordone ombelicale uscirà senza far male un curioso elefantino, suonatore di violino, una mucca piccolina che si chiama Carolina, con un vispo vitellino per giocare a nascondino. Filippo, cioè che tutta l'arca di Noè, porta quello che ti pare, porta tutto e non tardare. Questa è la filastrocca, andiamo agli endecasillabi. Filippo. Nasci 100 anni dopo un tuo bisnonno, mio padre, nonno della tua mammina, a segno che la vita si diverte a tessere ricami con un filo fatto ad un suono che ci fa danzare, immersi nel silenzio delle stelle. Sarai Filippo, amico dei cavalli, perché Filippo era il principino che ha popolato i sogni di tua mamma, quello di Aurora e delle tre fatine, Flora, Fauna e infine Serenella. Sarai amico delle cose belle, che nasci da poeti e musicisti, dal sangue colorato degli artisti, da chi sa che il colore della pelle è segno di ricchezza e fantasia. Nasci da un fiore lieto che si è schiuso per darti nutrimento e allegria. Nasci voluto, amato, concepito per darti in dono l'alito di Dio. Metà dell'arco che ha scoccato te era la freccia che ho scoccato anch'io, volata fino al cielo di Papino, e insieme ti daranno le radici ed ali per volare al tuo giardino. Ti chiederai il senso di quei voli e conterai le piume ad una, lo capirai puntando alla tua luna e viaggerai comunque tra le stelle. Filippo, amico delle cose belle. Grazie e buona continuazione. Stai ascoltando Radio Forte. Tanto forte al punto che è 100 celle a vengere. Radio Forte 100 Celle Avengers è il momento del saggio che non ricordavi di aver fatto. E, forse voi. Forse, a parte Virginia che ha fatto un quizzone tutto basato sui saggi che ricordi di aver fatto, quale strumento hai suonato, quanti pezzi hai suonato, per tutti gli altri esiste 100 Celle Amarcord, la rubrica che si occupa dei vecchi saggi passati. Sigla. Ricordati di te. Com'eri prima, pure estate fa, l'anno vecchio è finito ormai, pure estate fa, tutti quanti stiamo già aspettando, pure estate fa, messaggio che è un nuovo anno, mi ricordo che anni fa, pure estate fa. Ricordati di me. We'll be right back. E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. Pippo, abbiamo imparato le lettere, abbiamo imparato i numeri. A sto punto mi pare che possiamo anche imparare a suonare. No, no, figliolo, non ti preoccupare. Per questo c'è una rubrica apposita. Sigla. So I'm just care for you. Oh, cominciamo dall'inizio. Che dici? Dimenticavo di dirti che è anche in spagnolo. Ma tranquillo, io sono qua. Quando non capisci qualcosa me lo chiedi, va bene? Non ti sei mai chiesto che cos'è la musica? Un tiempo muy lejano en que los instrumentos musicales no se conocían entre sí. Cada familia de instrumentos vivía separada de las otras y verdaderamente era una lástima. Fueron los pequeños violines quienes, por casualidad, descubrieron que no eran los únicos instrumentos en el reino de la música. Y ahora vais a saber cómo fue. Los violines eran los niños de una familia muy antigua que se llamaba la familia de la cuerda. Su charla era muy agradable al oído. Los violines más pequeños podían cantar muy agudo con su primera cuerda. Sus hermanas mayores, las violas, tenían una voz más grave. Sus padres, los violonchelos, eran bastante más grandes y su voz se parecía a veces a la de los hombres. Y completando la familia, el abuelo con trabajo. ¡Uy! Casi me olvido de la vieja señorita arpa. Se parecía a una gran horquilla que tuviera tendidas entre sus puntas muchas cuerdas paralelas. Sabía mejor que nadie imitar el viento que gime. La tormenta que ruge. Y el canto de las fuentes. Un día, los violines muy entusiasmados fueron a buscar al abuelo con trabajo. Abuelo, abuelo, dijeron los violines, ¿a que no sabes lo que pasa? Íbamos paseando y de pronto en la otra orilla del río vimos unos instrumentos que no se nos parecen en nada, pero que hablan una música muy bonita. No son de madera como nosotros y no tienen cuerdas, son de latón y parecen grandes pipas. ¿Cómo? Dijo el arpa que había oído todo. ¿Es posible que eso sea cierto y que existan otros instrumentos que los de nuestra hermosa familia de la cuerda? Estoy impaciente por conocerlos. Decidles que vengan enseguida. Bene, Pippo, questa era solo la prima puntata di una grande serie che riguarda le famiglie di strumenti musicali. Ogni settimana, perché noi ogni settimana andremo in onda, faremo una famiglia. Sei contento? Sei contento? Vabbè, sei stanco, dai, sei stanco. Buenas noches e alla prossima puntata. Per quando te va a traer color gris para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, ven el diablo blanco y zah, le come la patita, chacapum, chacapum, ama chacapum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, trabajando y va de luto, trabajando, trabajando y no le pagan, trabajando, trabajando y va cosiendo, trabajando. Pa'l negrito chiquitico, pa'l negrito, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Ascoltando Radio Forte 100% Rangers. Aria, il mondo della radio è un pasticcio. Radio Forte 100% Avengers è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Ti ho svegliato. Pippo, come al solito, piuttosto che dire qualcosa, dà fastidio al microfono. Sentite, oh, questo, bravo, scalpiccio, bravo, questo scalpiccio è Pippo sul microfono. Molto bene, Pippo. Radio Forte 100 Celle Avengers, siamo arrivati alla conclusione di questa incredibile puntata pirotecnica in differetta o in direttita. E quella via di mezzo che piace a tutti fra diretta e differita, e non so, ci rimane soltanto da darci un appuntamento veritiero che non sia come l'ultimo, che poi abbiamo detto ci vediamo forse fra una settimana, forse fra due, e sono passati un tot di mesi, abbiamo fatto in è tempo passato un figlio nel a fare un figlio e quindi volendo essere più veritieri, però direi comunque l'anno prossimo come minimo torneremo arrembanti con 100 Celle Avengers, non più in 6 ma in 7. Pippo sta cercando di raggiungere il microfono, yeah. E prima o poi diventerà abbastanza alto da poter intervenire anche egli con i suoi contenuti. Io avere una bellissima rubrica sui Beatles anche lui. Esatto, di Beatles oggi non si è parlato, attenzione. È un record. Parla Pippo, vai. E niente, mentre Gabri cerca di molestare Pippo cercando di farlo parlare come fanno i genitori che inorgogliti vogliono che il proprio figlio si esibisca e lui si vergogna, e io con il cuore in mano vi do appuntamento alla prossima puntatona di 100 Celle Avengers su Radio Forte, e vi voglio bene, direi anche sigla. A presto, ciao! Ciao! Ciao! Ciao!